basta è la solitudine, stella dell'inquietudine, schiava del Dio silenzio, catena di un rosario. Questa è la solitudine, terra di vento e polvere, meta dell'invasore, dal braccio infedele. Questa è la solitudine, musica senza confine, fiore di deserto e spine da crescere in mano. Questa è la solitudine, fredda con le sue lacrime, candela del tormento, scala immensa di marmo. Questa è la solitudine, lenta con le sue pagine, coperta d'uncinetto, oceano sterminato. Questa è la solitudine, anzi mano il tuo respiro, porge la sua tazza al buio e ne bevi il veleno. Come un falco cade giù nel tuo sentiero, dentro te. E ti porta su lontano nel suo cielo. Questa è la solitudine, versata dentro un calice, votata al pentimento, offerta nel ricordo. Questa è la solitudine, caldo il desiderio sale, offre le sue labbra al grido, ti gela nel cuore.